Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo nella seconda ora del programma delle municipalizzate. Chi sono? Sono le società partecipate dai comuni. Perché ne parleremo? Perché il commissario famoso, mitico commissario alla spending review, quindi alla razionalizzazione della spesa, Carlo Cottarelli, sta analizzando la foresta delle circa 10.000 aziende partecipate da enti locali. Le chiamiamo municipalizzate, ma ci sono anche le partecipazioni delle province e delle regioni. Tra queste, pensate, gli enti locali sono, altro che vecchia IRI, sono dentro 320 aziende che producono vino, uova, latte o prosciutto, addirittura in agenzie di viaggi o enti termali. Ora, a parte che uno potrebbe anche obiettare che cavolo c'entrano gli enti locali in aziende che non forniscono servizi ai cittadini, servizi locali, servizi di prossimità, siamo tutti d'accordo che e anche servizi a tariffe agevolate, servizi pubblici, insomma, il prosciutto, il latte, i viaggi, le terme, nulla c'entrano, ma soprattutto poi vale la pena ricordare che nel 2012, se prendiamo tutte le partecipate dei comuni, hanno perso qualcosa come 1.200.000.000 di euro, a cui si aggiungono costi nascosti da contratti di servizio gonfiati e a carico dei cittadini, chiaramente. Renzi ha detto di voler ridurre a 1.000 il numero delle partecipate, vediamo se ce la farà. Il problema vero, ripeto, non è contestare la municipalizzata sui servizi che vengono erogati da un comune, da una provincia, da una regione. È che ormai le municipalizzate si sono estese a qualunque ramo d'attività e, come sappiamo, dietro si nasconde delle volte il voto di scambio, delle volte la poltrona di scambio e via così. In apertura invece chiaramente la Banca Centrale Europea lascia dei tassi di interesse invariati al minimo storico dello 0,15%, i tassi resteranno bassi ancora a lungo, ha detto Mario Draghi, e se cambia il quadro dei prezzi, e cioè se dovesse esserci una vera deflazione in Europa, useremmo il programma di acquisti di titoli di Stato su larga scala. Draghi ha anche invitato i paesi comunque a non allentare gli sforzi per ridurre il debito pubblico e ha stimato in circa 1.000 miliardi di euro l'ammontare a disposizione dalle banche, che la BCE mette a disposizione dalle banche con il cosiddetto TLTRO, perché però le banche li utilizzino per dare credito alle famiglie e alle imprese, esclusi i mutui per la casa. Poi ha aggiunto: non escludo che possano servire fusioni, acquisizioni e chiusure di alcune banche nell'area euro. A questo proposito la borsa più 0,70% Milano, più 1% Francoforte, più 0,90% Parigi, più 0,60% Londra. Il Banco Popolare perde il 2,90%, Enel meno 1,1%, Atlantia meno 0,80% come Tods. Fronte opposto, Mediaset più 3,90, Luxottica più 3,60, Finmeccanica più 3,20, Fiat più 2,70, scusate, Autogrill più 2,5, Buzzi Unicem più 2,20, Saipem più 2 come Telecom Italia e Prismian, Jux più 1,70 come G-Tech, Tenaris più 1,5 come Unicredit e UBI Banca. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Avremo anche un approfondimento sulla vicenda della maxi multa dell'antitrust ai due colossi della farmaceutica Roche e Novartis. Oggi ci sono anche delle notizie che riguardano il mondo dell'industria farmaceutica, però andando e tornando subito alle notizie in breve, vale la pena ricordare oggi che anche Barack Obama ha strigliato le banche, ha detto attenzione e ha detto che vuole arrivare a una riforma vera e propria di Wall Street. Sono deciso a intervenire per limitare i rischi eccessivi che ancora oggi vengono presi dalle banche in nome di maggiori profitti, ha detto Obama. C'è ancora un lavoro da finire dobbiamo continuare a lavorare per un sistema bancario che aiuti l'economia a crescere e porre fine a una situazione in cui molte di queste banche prendono grandi rischi a causa di incentivi e bonus che ne aumentano i profitti. E su questo, visto che si parla di grandi banche, invito oggi a leggere l'intervista su Sole 24 Ore, in prima pagina, di Jamie Dimon, che è il numero uno di JP Morgan. È un personaggio, diciamo, mitico per tutto il mondo di Wall Street. A parte il giudizio su Wall Street, c'è un passaggio che riguarda anche l'Italia e l'Europa. Dice Dimon: è un errore ritenere che l'Europa sia mezza morta, ma l'Europa deve essere competitiva. Deve focalizzarsi su fiscal compact, normativa bancaria e una regolamentazione adeguata. Occorre avere regolamenti più chiari, c'è molta incertezza per le banche europee sulle nuove regole aggiuntive. Attenzione, i prestiti alle piccole e medie imprese sono rischiosi e le banche europee sono sotto pressione per ridurre la loro leva finanziaria e raccogliere capitale. Nutro molta fiducia in Mario Draghi, la situazione politica europea, la situazione europea richiede però una politica europea, perché la politica monetaria da sola non può risolvere tutti i problemi economici. E sempre in tema di banche, oggi il commissario europeo per il mercato interno e servizi Barnier ha detto, nel corso di un incontro con la stampa a Roma, l'Europa ha vissuto la crisi finanziaria più grande di sempre per irresponsabilità di un certo numero di banche, per cui alcuni negli Stati Uniti sarebbero dovuti finire in carcere. E poi ha continuato: il patto di stabilità europeo contiene la flessibilità che si può utilizzare, che abbiamo già utilizzato per Spagna e Francia. Spagna e Francia hanno ottenuto infatti di rientrare più tardi sotto il 3% di deficit sul PIL. Ha detto poi Barnier: non siamo ancora pronti in Europa per gli euro bond, cioè per dei titoli di Stato di carattere europeo, con un debito europeo, però sono urgenti adesso iniziative per la crescita. In Germania intanto il Bundestag ha approvato l'introduzione del salario minimo con 535 voti favorevoli. La Germania avrà a partire dal 2015 un salario minimo di 8,5 euro l'ora. Veniamo all'Italia. Il numero uno di Etihad, la compagnia che è in trattativa per entrare in Alitalia con il 49%, mi riferisco a James Hogan, ha invitato l'Europa ad accogliere gli investimenti esteri nelle compagnie aeree dei Paesi membri. Non sono una minaccia, sono un'opportunità per rafforzare le compagnie aeree, sostenere l'occupazione e la crescita economica. Questo nel giorno in cui arrivano dall'Italia altre notizie che riguardano da un lato il fisco, dall'altro anche il mondo del mattone. Allora, partiamo da quest'ultimo. L'Istat, l'indice dei prezzi alle abitazioni negli ultimi 4 anni ha subito un calo del 10%, meno 10,4%, che nel mondo del mattone è un calo fortissimo. E spiega l'Istat, il calo è dovuto esclusivamente alle abitazioni già esistenti, non a quelle, diciamo, immesse sul mercato, che hanno fatto meno 15% in media in 4 anni nei prezzi. Ancora, per quello che riguarda le misure del governo, allora si va verso un aumento delle accise sui tabacchi, quindi 20 centesimi per le fasce più alte e 10 per quelle più basse. E poi ancora, il neo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha una domanda sull'efficacia per la lotta all'evasione dell'obbligo, ne abbiamo parlato per giorni, di avere il POS, quindi bancomat e carta di credito. Per i professionisti ha detto: credo che ci voglia una scelta politica aggiuntiva rispetto a uno strumento che per ora è solo di moral suasion. E nel frattempo Equitalia ha annunciato che si riapre una nuova finestra per chi ha perso la possibilità di pagare a rate le cartelle esattoriali. Equitalia infatti ha riaperto la rateizzazione, come previsto dal DL IRPEF, che riguarda in tutto debiti fiscali per 20 miliardi di euro. La domanda va presentata entro il prossimo 31 luglio. Ultimo aspetto prima di entrare nei temi che riguardano la Banca Centrale Europea, il lavoro. Allora, da un lato c'è l'audizione del Ministro del Lavoro Poletti al Question Time in aula al Senato, in realtà non è un'audizione, è un Question Time. Poletti ha detto: sul bonus occupazione stiamo facendo una verifica per vedere se i requisiti hanno fatto da ostacolo alla sua piena attuazione. Sulla parte che riguarda la garanzia giovani, ha fatto notare che ci sono oltre 100.000 giovani che si sono già registrati. Le imprese registrate sono 5.000, quelle che si sono registrate per offrire un lavoro. Un numero considerato basso, ma che è altissimo se lo valutiamo, ha detto Poletti, rispetto al nostro paese. E sempre in tema di lavoro, una cosa che riguarda anche noi come Sole 24 Ore, meglio la società del gruppo Sole 24 Ore Back to Work 24, che è una società di replacement, di riformazione, poi aiuta a ricollocare varie figure professionali. Ieri un accordo con la Confartigianato Vicenza, una delle più grosse dell'intero nord-est, per far avvicinare le piccole e medie imprese a manager, dirigenti e professionisti disposti a investire in esse, sia come capitali sia esperienza. Carlo Bassi, l'amministratore delegato di Back to Work 24, ha spiegato a margine della presentazione quali vantaggi concreti vi saranno per le imprese associate a Confartigianato in questo rapporto, in questo accordo firmato con Back to Work. L'accordo è innanzitutto il primo in Italia fatto con un'associazione di categoria, quindi ne siamo orgogliosi. È un accordo che porta alle piccole imprese del territorio finanza attraverso la sollecitazione di finanza privata, quella che non si va a cercare gli istituti di credito, ma che è spesso molto ricca nel risparmio privato degli italiani, quindi di investitori singoli, di manager che vogliono investire in piccole imprese. Noi ne abbiamo oltre 2.000, la somma totale della disponibilità di investimento supera i 400 milioni di euro. Con dei vantaggi per le società legate a Confartigianato di avere dei meccanismi di vantaggio nel processo per avvicinarsi a questi manager, a questi investitori, in modo che possano più rapidamente, a costi decisamente contenuti, molto lontani da quelli che sarebbero i costi di un istituto di credito, poter approcciare investimenti, una modalità di accedere a investimenti alternativi rispetto a quelli tradizionali. Cosa dicono i vostri dati? Che tipo di potenzialità può esprimere il nostro tessuto produttivo? Ma è straordinaria la potenzialità, innanzitutto perché c'è un'attitudine storica alla crescita e allo sviluppo verso l'estero. La maggior parte dei nostri manager vengono da grandi esperienze multinazionali e oggi hanno un patrimonio di know-how per entrare nei mercati internazionali e per accompagnare piccole imprese in questi mercati come non ce ne potrebbe essere altrimenti. E noi favoriamo il fatto che questi manager diventino investitori e portino il loro capitale finanziario, ma anche il loro capitale di esperienza dentro le piccole imprese. E sempre a margine della presentazione dell'accordo, il numero uno, direttore generale in realtà della Confartigianato Vicenza, Francesco Delotto, ha spiegato come questo accordo sia nato anche da una volontà di offrire nuove opportunità per lo sviluppo delle aziende. A Back to Work, come avete sentito, si iscrivono ex manager, ex dirigenti espulsi dal mercato del lavoro o magari prepensionati, in alcuni casi espulsi perché hanno chiuso i gruppi o si sono ridimensionati i gruppi in cui lavoravano. Sentiamo appunto qual è l'attesa che arriva anche dal mondo artigiano dopo questo accordo. Nasce nell'ambito della nostra ricerca di offrire sempre nuove opportunità per le aziende in fase di profonda ristrutturazione, ma che cercano anche grandi opportunità di sviluppo. In questo caso si tratta di far incontrare dei potenziali investitori in aziende che stanno cercando ulteriori motivazioni e mezzi per crescere con professionalità, strutture, competenze e anche capitali che possono essere trovati anche sul mercato. Adesso invece la Banca Centrale Europea, volete sapere di Fincantieri come va? Un po' commosso il titolo, ne parleremo durante l'approfondimento di borsa. Giustamente oggi comunque era il debutto a Piazza Affari di Fincantieri, abbiamo avuto parecchi debutti in questi giorni, ricordo anche Fineco, Fineco Bank. Comunque adesso, che tra l'altro oggi ha fatto un più 5,60% Fineco Bank, Fincantieri è invariata, 0 su 0,00, per cui più 0 di così non si può, il prezzo resta 78 centesimi di euro. Allora, tassi invariati in Europa, ma non è questo il tema, dopo la decisione presa era abbastanza ovvio, in realtà è il ragionamento che Mario Draghi fa su quanto terrà i tassi bassi e se è pronto a nuove misure se l'inflazione dovesse essere veramente diventare deflazione. Based on our regular economic and monetary analysis. Sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. Le ultime informazioni disponibili confermano che la ripresa moderata dell'area euro sta procedendo nel secondo trimestre accompagnata da un basso tasso di inflazione. Allo stesso tempo, le attese riguardo l'inflazione nell'area euro nel medio-lungo termine continuano ad essere ancorate in linea con l'obiettivo di un tasso al di sotto ma vicino al 2%. Gli effetti delle misure espansive che abbiamo deciso un mese fa si faranno sentire sull'economia e contribuiranno anche a far tornare l'inflazione ai livelli vicini al 2%. I tassi di interesse rimarranno a questo livello per un periodo prolungato alla luce del contesto attuale riguardo l'inflazione. Inoltre, il Consiglio è unanime nel suo impegno a usare anche strumenti non convenzionali, se dovesse rendersi necessario, per affrontare un periodo prolungato di bassa inflazione. Siamo assolutamente determinati a salvaguardare l'ancoraggio delle attese circa l'inflazione nel medio-lungo termine. We are strongly determined to safeguard the firm anchoring of inflation expectations over the medium to long term. Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte, buonasera. Sì, buonasera a voi. Allora Alessandro, nulla di così diciamo innovativo come la penultima volta quando venne lanciato anche il piano di aiuti alle banche, l'abbassamento dei tassi di interesse, il rendimento negativo sull'overnight, sui depositi notturni, però insomma Draghi ha detto attenzione, il tema della bassa inflazione è tutt'altro che dimenticato. Sì, ha ricordato che la Banca Centrale, il suo faro resta appunto l'inflazione. L'inflazione al momento è troppo bassa rispetto agli obiettivi e che se quindi questo profilo dell'inflazione dovesse continuare a peggiorare o comunque non avvicinarsi come la Banca Centrale spera verso l'obiettivo di stare vicini al 2%, la BCE sarebbe pronta a intervenire ulteriormente. Diciamo che oggi l'accento è stato messo più sui dettagli di queste operazioni per far ripartire il credito, attraverso le quali la BCE è convinta che in qualche modo si favorisca la ripresa dell'economia e quindi insomma anche l'inflazione possa risalire un po'. Forse la cosa più nuova che ha detto Draghi a questo proposito, che aveva citato il mese scorso la cifra di 400 miliardi di euro potenzialmente disponibili nelle prime due di queste operazioni di fornitura di liquidità alle banche, condizionate appunto alla concessione di prestiti all'economia reale, quindi soprattutto alle imprese. La cosa nuova che ha detto Draghi oggi è che sommando questi 400 miliardi a quello che si potrà fare poi in sei aste successive, si potrebbe arrivare addirittura, queste sono le proiezioni della BCE, a 1.000 miliardi di euro che verrebbero resi disponibili per ulteriori prestiti all'economia reale da settembre di quest'anno al giugno del 2016. E infatti 1.000 miliardi per prestiti a imprese e famiglie. Vorrei poi arrivare anche su un altro punto che riguarda le fusioni e le chiusure bancarie, però tu ricordavi altri inviti di Mario Draghi, ha detto ai paesi dell'area euro di non allentare gli sforzi per ridurre il debito, però ha detto anche, attenzione, esistono rischi geopolitici e anche rischi legati al cambio, al tasso di cambio dell'euro. Gli indicatori economici disponibili fino a giugno segnalano la continuazione di una ripresa economica molto graduale nel secondo trimestre dell'anno. Guardando avanti, la domanda interna dovrebbe essere sostenuta da un certo numero di fattori, tra i quali la politica accomodante e i miglioramenti delle condizioni di finanziamento. Inoltre, i progressi sul fronte del consolidamento dei conti pubblici e delle riforme strutturali dovrebbero contribuire positivamente alla crescita. In aggiunta, l'export dovrebbe beneficiare della ripresa economica globale. Tuttavia, anche se il mercato del lavoro ha mostrato segnali di miglioramento, la disoccupazione resta alta nella zona euro. I rischi a questo scenario rimangono al ribasso. In particolare, rischi geopolitici, così come gli sviluppi nelle economie emergenti e sui mercati finanziari, potrebbero avere un impatto negativo sull'attività economica. Un ulteriore rischio al ribasso potrebbe derivare da un processo insufficiente di riforme strutturali nei paesi dell'area euro e da una domanda interna più debole del previsto. Per ciò che riguarda lo sviluppo sul fronte dei prezzi, vediamo rischi sia al rialzo che al ribasso, ma sono rischi limitati e bilanciati nel medio termine. In questo scenario seguiremo attentamente le possibili ricadute derivanti da rischi geopolitici o dagli sviluppi dei tassi di cambio valutari. Possible repercussions of geopolitical risks and exchange rate developments. E poi, come ricordavo in apertura, un'indicazione al mondo bancario: non si può escludere che vi sia bisogno di fusioni, acquisizioni e chiusure di istituti bancari. Draghi non ha aggiunto quali, ma insomma, è la prima volta, adesso, però magari mi sbaglio, Alessandro, che lo sento parlare di fusioni e chiusure di banche in maniera così netta. Ma diciamo che Draghi ha anche precisato che non è il suo mestiere quello di fare fondere o acquisire le banche da qualcuno o di chiuderle, però chiaramente ha ammesso che ci sia questa possibilità. Ne parlava a proposito di un paper, di un articolo, di un documento, che uno studio che è stato scritto dal Consiglio sul rischio sistemico, che è legato alla BCE e che sosteneva che appunto in Europa c'è un eccesso di banche, l'Europa è overbanked, si chiede questo studio, e Draghi non ha voluto prendere posizione né a favore né contro, però ha detto comunque una cosa a cui prestare molta attenzione. È chiaro, credo da tempo, che la BCE, anche attraverso questa valutazione delle banche che sta facendo e che si concluderà nei prossimi mesi, vede un processo in cui, e Draghi questo l'ha detto anche in passato, si eliminano le cosiddette banche zombie, no? Cioè quelle che stanno in piedi solo perché al momento magari sono tenute in piedi da soldi pubblici oppure da finanziamenti facili, però insomma le banche zombie in un mondo ideale di Draghi dovrebbero essere eliminate, perché poi sono banche zombie che a loro volta tengono in piedi imprese zombie, dice lui, e quindi sicuramente non sono un vantaggio per il sistema, per il sistema economico. Alessandro, Draghi ha fatto qualche battuta sulla direttrice del Fondo Monetario, la Christine Lagarde, che anche ieri era tornata a dire, insomma, la BCE deve avere anche un ruolo un po' diverso, o sull'intervista oggi in prima pagina su Sole 24 Ore di Jamie Dimon, che invece elogiava Draghi, molta fiducia, anche se diceva non basta certo la politica monetaria se manca una politica veramente europea, e non può esserci solo la politica monetaria a risolvere i problemi. No, Draghi si è astenuto dalle battute stavolta. Credo che sulla Lagarde abbia già dato nei mesi scorsi, quando aveva detto che era stata fin troppo generosa nei suoi consigli e che potrebbe darli anche a qualcun altro oltre che a darli alla BCE. Quanto a Jamie Dimon, non ha fatto commenti, Su questo però è noto che questa è una tesi di lungo periodo, se così possiamo dire, di Draghi, che da sempre sostiene che la Banca Centrale Europea ha fatto molto, però ha anche un mandato ben preciso e ben delimitato. Qualcuno sostiene anche che forse è andato già al di là del suo mandato, ma insomma lui ritiene di aver fatto molto, è determinato a fare ancora molto, però che ci sono delle cose in Europa che sicuramente non fanno parte dei compiti della BCE e sui quali la BCE non potrebbe essere particolarmente efficace, in particolare per tutto quello che riguarda il campo delle riforme strutturali per recuperare competitività, produttività, insomma nell'industria. Credo che questa sia una tesi di Draghi che non voglio mettergli in bocca delle parole che non ha detto, però credo che condivida, o quantomeno da quello che ha sempre detto, quello che esce da questa intervista di Diamond. Chi ha commentato invece esplicitamente l'intervista di oggi su Sole 24 Ore del numero 1 di JP Morgan è stato il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini. Il sistema bancario europeo esce da 5 anni di forti difficoltà. Le banche italiane hanno dimostrato di essere molto solide nel sostenere l'impatto della crisi, tanto che non hanno avuto bisogno di aiuti pubblici, a differenza di molti altri istituti bancari europei. Stiamo affrontando con grande serietà il comprehensive assessment. Grazie a Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la borsa e oggi, come sapete, che ciclicamente invitiamo, diciamo sono i colleghi di Radio Cor, ma invitiamo anche degli operatori di borsa. Bentornato al dottor Roberto Brasca, vicepresidente di Comea. Buonasera. Allora, oggi, prima di arrivare su Milano, c'è un Dow Jones che ha sfondato la quota di 17.000 punti. Tra l'altro domani l'America è chiusa e oggi chiudere alle 19, se non ricordo male, Wall Street. E il Dow Jones è arrivato, dicevo, a 17.000, in questo momento 54 punti, per la prima volta nella sua storia. Brasca. Sì, è un po' il ciclo degli utili che è cominciato, no? Ci sono dei cicli, per di solito quando parte un mercato positivo, la prima parte è sostenuta dalle valutazioni con tassi amichevoli e poi sono gli utili delle imprese a dover fare la seconda parte del cosiddetto bull market. In America siamo in questa fase, il mercato conosce nuovi massimi, però bisogna anche rendersi conto di quanto era sceso tra il 2007 e il 2009, quindi alla fine non sale così tanto se noi guardiamo il livello che aveva raggiunto nel 2007 1600 il livello dove siamo adesso, cioè quasi al 2000, ma sono passati parecchi anni, le società si sono ristrutturate e senz'altro in America hanno più capacità di rigenerazione sia del business che della singola impresa. Detto questo, c'è da un lato prudenza da parte degli operatori, che è sempre un fattore positivo per l'andamento dei mercati e non euforia. E dall'altro lato ci sono state, ho visto le dichiarazioni ieri della Yellen, abbastanza positive come sostegno ai mercati, no? Cioè ha detto occhio che la politica monetaria americana è importante per tutto il mondo e anche se la disoccupazione è scesa può mascherare cioè i non occupati, cioè quelli che non si rivolgono più al mercato del lavoro, quindi il mercato ovviamente ha capito che la Fed c'è e non abbandona i mercati. Allora, sui titoli italiani invece, Mediaset più 3,90%, faccio notare che secondo la stampa spagnola Mediaset avrebbe deciso di cedere il 22% di DTS, che è la controllante della principale pay TV spagnola, a Telefonica, ne parliamo da settimane, però l'operazione sarebbe praticamente confermata, manca solo l'ufficialità. Il Mediaset e Spagna tuttavia ha affermato che un accordo definitivo ancora non è stato trovato, ma sul mercato si scommette il miglior titolo, più 3,90%, bene anche oggi Luxottica più 3,80%, Finmeccanica più 3,20%, Fiat più 3%, tra l'altro nascerà il 1 agosto Fiat Chrysler Automobiles FCA, l'assemblea degli azionisti Fiat per l'approvazione del processo di fusione, che sarà l'ultima in Italia, è stata convocata per questa sera, ma il titolo risente ancora dei dati sulle matricolazioni. Autogrill più 2,5, Buzzi Unicem più 2,5, Saipem più 2,30, Telecom più 2,20%, come Iux, il 2% lo guadagna anche Prismian e Tenaris, Ubibanca più 1,80, Gtech più 1,70, come Unicredit e Unipolsai, l'1,5 rialzo di World Duty Free e di Pirelli, ma anche di ST Microelectronics ed Exor. Fronte opposto, Banco Popolare meno 2,80%, Enel meno 0,80%, TOZ meno 0,60%. Tutte ben intonate le borse europee dopo le parole di Draghi. Bene oggi di nuovo a Milano, va detto, il titolo FinecoBank, lo ricordavamo prima, debuttante, e ha guadagnato il 5% era il rialzo fino a qualche minuto fa. Invece c'è un'altra debuttante che è Fincantieri. Allora, nel presentare il debutto della società in borsa questa mattina, l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha detto: nessuno ha detto che quest'anno solo noi abbiamo avuto il coraggio, lui ha detto le palle, di portare un'azienda industriale sul mercato. L'unico collocamento di un'azienda industriale. Fin dall'inizio ci siamo detti che era un'operazione soprattutto per i retail, cioè per i piccoli risparmiatori, e era difficile che in questa fase si potesse fare diversamente, anche perché Fincantieri ha già un fondo importante come azionista di maggioranza, ossia Fintecna. Il titolo praticamente non si è mosso. Brasca. No, in effetti, insomma, era un po' un esito annunciato, questo non è, però non è una cosa che deve spaventare. No. Voglio dire, se io partecipo a una quotazione in borsa, è ovvio che mi fa piacere se il titolo sale, ma non è per il guadagno del giorno dopo. Io divento azionista di una società. Questa è una società che ha avuto un calo di redditività dovuto a alcune, sia agli andamenti sensoriali sia alcune scelte della società negli ultimi anni, e che con questo aumento di capitale, che alla fine è l'unica, cioè alla fine l'emissione è dovuta soltanto a un aumento di capitale, non c'è nessuna vendita da parte di Fintecna, perché a fronte della domanda bassa sono stati ritirati 100 milioni che doveva vendere, di euro che doveva vendere Fintecna. E quindi questa è una società che andrà a ricostruire la sua marginalità nel tempo. Sarà un'avanzata probabilmente lenta, in attesa avanzerà quando porterà dei risultati positivi. È chiaro che non c'è, a fronte della domanda scarsa che ha suscitato, non c'è stata la partenza col botto. Sì, però sono anche d'accordo, attenzione, non è che serva sempre il botto, delle volte uno può anche guardare al titolo nel medio termine, e sul retail, ho capito il ragionamento che ha fatto anche Bono. Volevo dare i peggiori titoli di questa seduta invece. Intanto FinecoBank ha fatto più 4,25% oggi, così do anche il valore. Allora, i migliori sono Venture Group più 16,30, Movimax più 14, Seat Pagine Gialle più 6%, Alcatel Lucent più 5,70. I peggiori invece: Screen Service meno 4,26, Mono TV meno 3,70, Neurosoft meno 3,20%. Grazie al numero uno di mi riferisco chiaramente al dottor Brasca. Adesso le informazioni sul traffico e poi parliamo del mondo farmaceutico, perché oggi ci sono dei dati, ma soprattutto della vicenda della maxi multa e accusa dell'antitrust nei confronti dei due colossi farmaceutici Novartis e Roche. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di questa prima ora. Allora, dicevamo dell'industria farmaceutica. Oggi, nel corso dell'assemblea di Farmindustria, il presidente Massimo Scaccabarozzi ha detto: siamo pronti a investire 1,5 miliardi di euro come industria farmaceutica, creando 2.000 nuove opportunità di lavoro per i giovani. 470 milioni sono già stati dichiarati di questi 2 miliardi, di questo 1,5 miliardi. E poi ha continuato ricordando come le aziende del farmaco in Italia siano ai primi posti per produttività, export e innovazione. Nel 2013 l'export farmaceutico in Italia è cresciuto del 14%, cioè i farmaci prodotti in Italia che noi esportiamo, e negli ultimi anni del 64%, e le aziende hanno determinato il 34% l'aumento complessivo delle esportazioni manifatturiere in Italia. E sempre in tema di industria farmaceutica, torniamo a occuparci del caso dei farmaci per la vista Avastin e Lucentis, con le accuse rivolte alle aziende farmaceutiche Roche e Novartis di essersi accordate per favorire la vendita del farmaco più costoso tra i due, 600 euro di Lucentis, nonostante l'Avastin costasse dai 30 ai 130 euro e vi fossero identità di efficacia e caratteristiche tra i due prodotti, con un danno secondo l'antitrust di 1,2 miliardi per il Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Sentiamo intanto il presidente dell'antitrust Pitruzzella sulla vicenda. L'istruttoria è nata dalle denunce di alcune appunto organizzazioni e in particolare della società degli oftalmologi, le quali attestano proprio l'equivalenza dei due farmaci. Ma al di là di questo, quello che ai nostri fini interessa maggiormente è l'evidenza di tutti questi rapporti, di questi accordi, di questi costanti contatti per evitare la commercializzazione in farmaco da noi e l'altro. Molto strano che i due concorrenti si sentano e uno, invece di promuovere la vendita del suo farmaco, dice che occorre differenziare, anzi realizzare delle campagne pubbliche per sensibilizzare sui pericoli del primo e favorire il secondo. È una delle multe più elevate nella storia dell'antitrust ed è la più elevata per quanto riguarda appunto casi di questo tipo. L'anno scorso abbiamo dato un'altra multa importante di 104 milioni di euro a Telecom. È una multa consistente e certamente un effetto deterrente, ma è un segnale al mercato diretto ad evitare il ripetersi di comportamenti come questi. Questa è la posizione appunto del presidente dell'antitrust Pitruzzella. Siamo in collegamento con il direttore affari legali di Roche Italia, l'avvocato Fausto Massimino. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, spiegavamo, l'accusa è di aver creato un danno al sistema sanitario nazionale da oltre 1,2 miliardi di euro, perché le due case farmaceutiche, quella che le rappresenta la Roche e Novartis, si sarebbero accordate per ostacolare la diffusione del farmaco più economico, l'Avastin, a vantaggio di un prodotto molto più costoso, il Lucentis, che costa 900 euro, l'Avastin costa tra i 15 e gli 80 euro. Gli effetti e l'efficacia sarebbero analoghi da quanto emerge dagli ultimi test condotti. Voi avete fatto ricorso al TAR, anche chiaramente Novartis, sulla base di quale motivazioni? Ma noi abbiamo fatto ricorso al TAR nella convinzione che non esista nessun tipo di cartello, perché non esiste nessuna possibile concorrenza tra questi due farmaci. Uno degli equivoci che anche il professor Pitruzzella continua a ribadire è che possano essere concorrenti due farmaci che sono in realtà destinati a patologie diverse. Uno è un farmaco oncologico, l'altro è un farmaco oftalmico. Dal nostro punto di vista, e di questo siamo certi, nel momento in cui un farmaco non è autorizzato, non può essere nel mercato rilevante di un altro farmaco che invece è autorizzato, quindi non può esistere concorrenza e non può esistere cartello. Pensare che ci possa essere questo vuol dire stravolgere completamente le regole regolatorie, pensare che il mercato del farmaco possa essere come il mercato dei formaggini e quindi che non ci possa essere una verifica dell'autorità regolatoria sulla sicurezza del farmaco, verifica che nel nostro caso proprio è mancata. Il secondo equivoco che è il professor Pitruzzella anche nell'intervento che voglio avete riportato ribadisce è: noi non abbiamo promosso il nostro farmaco. A Roche è vietato promuovere il proprio farmaco in ambito oftalmico proprio perché non è autorizzato, quindi questo è un paradosso assoluto che noi speriamo che il TAR possa in qualche modo comprendere. Sì, però dico, l'accusa è anche al danno che il cartello avrebbe creato al sistema sanitario nazionale, cioè si dice che voi assieme a Novartis vi sareste messi d'accordo per evitare in tutti i modi che si potesse arrivare all'utilizzo del farmaco più economico, l'Avastin, rispetto a quello più costoso, Lucentis. Ecco, purtroppo questa è una storia, come dire, efficace in termini comunicazionali quanto irreali nei fatti, nel senso che non c'è stato nessun tipo di accordo. Roche l'unica cosa che ha fatto è stato consolidare gli eventi avversi sul farmaco e richiedere all'autorità regolatoria di valutare la modifica del foglio illustrativo affinché questi rischi venissero trasmessi ai medici. Quindi noi come Roche abbiamo eseguito soltanto comportamenti obbligatori per legge, che tra l'altro adottiamo per ogni nostro farmaco a tutela del paziente per un principio di precauzione. Quindi devo dire che da questo punto di vista c'è una certa carenza di conoscenza anche da parte dell'antitrust rispetto agli obblighi dell'impresa. Questo tra l'altro si riflette anche sul concetto di danno, cioè questo danno di 1,2 miliardi è un'altra delle, come dire, ipotesi virtuali che, come dire, permeano tutto il provvedimento dell'antitrust. È curioso che l'antitrust dica: se non fossimo intervenuti ci sarebbe stato un danno di questa entità, dopodiché il danno teorico diventa il danno effettivo. Qui veramente c'è una realtà virtuale che è accattivante probabilmente per chi ne deve parlare sui giornali, e poi c'è una realtà di fatto che purtroppo noi non riusciamo a far comprendere. Ripeto, la nostra fiducia è che la comprenda il TAR. Va bene, grazie, e vedremo come andrà poi la sentenza del TAR. Grazie al direttore affari legali di Roche Italia, Fausto Massimino. Grazie mille, buongiorno. Sì, vedo molti messaggi sul tema, era importante. L'antitrust ha già preso la sua decisione, farà sentire anche l'avvocato di parte. Perché Roche Novartis? Perché l'accusa, come abbiamo spiegato, è che le due si siano messe d'accordo in modo che una non promuovesse il farmaco meno costoso, quello più economico, a vantaggio dell'altra. Questo era l'impianto complessivo. I have a dream, that one day on the red sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti messaggi che sono arrivati sulla vicenda Roche Novartis. Era giusto far ascoltare anche la linea di difesa, in questo caso della Roche. Faccio notare che alcuni mi scrivono che Roche, il legale di Roche, gioca sulle parole quando dice che Avastin non poteva essere usato in alternativa a Lucentis perché non aveva indicazione. Perché allora Roche non ha chiesto all'AIFA, che è l'autorità che gestisce l'argomentazione dei farmaci, l'estensione delle indicazioni all'uso oftalmico? Cioè, perché non ha chiesto che potesse essere utilizzato anche per uso oftalmico? Questo è sospetto, cioè che non l'abbia fatto per non danneggiare Novartis. Questa è l'accusa, non è il sospetto, è l'accusa dell'antitrust. E poi mi scrive un ex amministratore di una clinica che eroga prestazioni oftalmiche, dice che il farmaco Avastin è considerato dall'AIFA equipollente al Lucentis. Da anni noi lo abbiamo sempre usato senza alcun problema rispetto ai controlli di rito fatti periodicamente dalla nostra ASL di competenza, tenuto conto che il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa 130 euro per le prestazioni erogate con tale farmaco, si può comprendere come sia assolutamente impossibile usare il Lucentis o Lucentis. Allora, grazie anche per queste segnalazioni. Ora però preparatevi, tenete le mani sul volante, ingoiate un po' di Malox, perché torniamo a occuparci della foresta delle 10.000 aziende partecipate dagli enti locali. Si chiamano municipalizzate, ma dicevo riguardano anche i comuni e le province. Sono tutte al vaglio del commissario per la spending review Carlo Cottarelli, no? Tra queste anche Cottarelli si è accorto, per modo di dire, che ci sono 320 società partecipate dagli enti locali, 320, che producono vino, uova, latte, prosciutto, hanno partecipazioni in agenzie di viaggio e in enti termali. Qualcuno mi ha detto: ma l'ente termale è un servizio, sì, ho capito, che possa essere parte del servizio sanitario, va bene che tu debba parteciparvi come municipalizzata, non si capisce perché, ma comunque tutto bene, mica tanto, perché intanto sembra di parlare della nuova IRI su base locale e non se ne sentiva nessuna mancanza, nessun bisogno, ma dall'altro, e quindi anche con una concorrenza a mio avviso scorretta nei confronti del privato. Perché lo dico? Perché le partecipate dai comuni nel 2012 hanno perso qualcosa come 1,2 miliardi di euro. Ora, se tu sei un privato e perdi queste cifre, prima o poi chiudi. nel pubblico i debiti spesso vengono ripianati, a cui si aggiungono costi nascosti da contratti di servizio gonfiati, come quelli a carico dei cittadini per tariffe eccessive. Il presidente del Consiglio Renzi ha annunciato di voler ridurre a 1000 il numero delle partecipate, ma in realtà nessuno sa bene quante siano con esattezza le partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Se si allarga il campo ad altri enti pubblici e allo Stato, si arriva, secondo alcune stime, addirittura a 39.000 società. Secondo la Corte dei Conti, non lo diciamo noi populisti, ma secondo la Corte dei Conti l'80% di queste società non si occupa di servizi indispensabili per la collettività. Un'indagine di Confindustria si è fermata a circa 2/3 di questo universo e ha stimato che se venissero cedute o liquidate le partecipazioni, si potrebbero avere risparmi pari a 13 miliardi di euro l'anno. E voglio essere molto preciso su questo, è che le municipalizzate e le partecipate agli enti locali hanno assolutamente ragione di essere e di esistere quando erogano servizi appunto alla collettività e chiaramente non possono avere nemmeno delle volte dei costi da privato, perché sono servizi per la collettività, servizi idrici, elettrici e quant'altro, di trasporto locale, ci mancherebbe. Quello che noi contestiamo non è la municipalizzata che svolge il servizio, diciamo, alla collettività, ma sono tutte queste migliaia di municipalizzate che non si capisce quale servizio svolgono per la collettività, ma si capisce molto bene che svolgono un servizio per, diciamo, per la politica, per in alcuni casi scambio di voti, in altri casi semplicemente scambio di poltrone, cioè quello che resta trombato va lì e trova un posticino anche lui. Questo lo vediamo molto bene. Ringrazio da un lato chi si è occupato su Sole 24 Ore di questa vicenda e mi riferisco a Gianni Trovati. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Sentiamo un po' basso, vi chiedo di alzare il volume di Trovati per favore. Dall'altra, grazie anche all'economista Roberto Perotti, editorialista del Sole 24 Ore, che si è lungamente occupato anche dei costi della politica. Buonasera anche a lei professore. Buonasera. Allora Gianni, io citavo in maniera così a volo d'uccello questi dati, ma insomma tu hai scritto anche recentemente su questa selva di oltre 10.000 partecipate, ma tra l'altro che chiudono, non tutte, però che complessivamente hanno avuto perdite per 1,2 miliardi, Gianni. Sì, tra l'altro per aumentare, diciamo, l'aneddotica che si citava prima società partecipate da enti territoriali che fanno cose strane, vabbè, c'è il famoso zuccherificio del Molise, ma chi vuole il sale deve andare in Sicilia, e in Umbria c'è anche la società che si occupa di fiori, cioè vende fiori, fa gli allestimenti per i matrimoni, bla bla bla. La cosa bella è che tutte queste società sono in perdita, mentre se si guarda le società di servizi pubblici locali, energia, rifiuti, i classici, diciamo, in cui le società di servizi pubblici locali devono essere attive, noi vediamo che sono circa il 20% del totale delle società e secondo la Corte dei Conti hanno nel complesso un utile, cioè tu hai un mondo diviso in due. Da un lato le società di servizi pubblici locali veri, che nel complesso sono un quinto del totale e hanno un utile, e poi ha intorno tutto un universo sterminato di società che sono attive in settori di mercato, ma evidentemente non con logiche di mercato, oppure le strumentali, cioè quelle che lavorano solo per la pubblica amministrazione, che in complesso sono in perdita. L'altra cosa curiosa è che nessuno sa quante sono. Ci sono un'infinità di monitoraggi ufficiali, autori sono Funzione Pubblica, Corte dei Conti e così via, ma ogni monitoraggio dà una stima diversa, un numero diverso. No, questo è bellissimo, dico che ogni volta che si cerca di capire quante sono escono numeri diversi, e già la dice lunga. Però tu hai detto una cosa molto importante e mi hai corretto e hai fatto bene, perché in realtà paradossalmente, se ho ben capito però Gianni, le municipalizzate che si occupano di quello che dovrebbe fare una municipalizzata, cioè erogare servizi, alla collettività. In realtà sono circa un quinto delle 10.000 che stimiamo, no? O un quinto. Sì, sì, esatto. La Corte dei Conti ne conta un po' più di 1.000. Sì, ecco, che hanno questo ruolo. 7.000 che conta la Corte dei Conti. Ok, che hanno questo ruolo sulla collettività. E queste sono pure inutili. Quelle che fanno cose che non dovrebbero fare, perché sono attività tipicamente dal mondo privatistico, citavi il zuccherificio. O la fabbrica di sale o chi produce decorazioni floreali, beh, quelle invece sono complessivamente date in perdita. Professor Perotti, lei a lungo ha studiato i costi della politica, che non sono semplicemente il costo del funzionamento della politica, quello che la UIL stima in 23 miliardi di euro all'anno. Il tema delle municipalizzate, secondo lei, è un tema di carattere in primo luogo economico, o anche se una chiudesse inutile non dovrebbe comunque stare in quel settore, perché, voglio dire, usiamo i soldi dei contribuenti e degli enti locali per altre cose? No, non c'è niente di male in un'azienda che produce servizi che sia municipalizzata o pubblica in generale. Però secondo me bisogna stare molto attenti a quando si dice queste aziende, questo gruppo di aziende municipalizzate o pubbliche è inutile, nel senso che produce utili, e quest'altro gruppo invece produce perdite, perché e cosa si definisce utile per un'azienda pubblica e un'azienda municipalizzata è molto difficile da dire. Il caso classico è quello delle ferrovie. Le ferrovie dicono noi siamo, diciamo utili, però poi si scopre che producono utili perché hanno dentro il bilancio anche miliardi di sussidi che ricevono dallo Stato. Quindi bisogna vedere se producono utili prima, escludendo i sussidi che gli danno lo Stato, le regioni o province e comuni, o includendoli. In ogni caso, secondo me, il criterio della perdita o dell'utile di esercizio, secondo me, non è molto importante, perché queste, anche se una municipalizzata perdesse soldi, non è detto che sia mal amministrata, perché le municipalizzate non possono mettere i prezzi in mercato. Quelle che operano sui servizi alla collettività, sono d'accordo. Sì, per esempio, certo. Magari sono costrette i famosi prezzi amministrati, il prezzo, certo, del biglietto dell'autobus non può essere. Quindi il criterio di per sé dell'utile o della perdita, secondo me, non è dirimente. Io mi stupisco peraltro che la perdita totale sia solo di 1.200.000.000. Credo che sia dovuto al fatto che vengono incontabilizzate anche i sussidi che ricevono dallo Stato. Il sogno è chiaro, no? Non doverci più occupare delle municipalizzate, non perché ce l'abbiamo con le municipalizzate, ma perché riteniamo che debbano occuparsi veramente solo di dare servizi indispensabili alla collettività. Però, professor Perotti, se anche utilizzando, guardano solo quelle che danno servizi indispensabili, l'utile non ha un senso, cosa dovremmo guardare? Dovremmo guardare in generale all'efficienza, che non è una cosa facilmente misurabile, ovviamente, però diciamo ci sono dei casi tra noti a tutti. Facciamo un esempio classico, quello dell'ATAC di Roma, dove è noto che alle 7 del mattino, quando parte il servizio, dovrebbero essere scalati gli autobus di mezz'ora in mezz'ora, ovviamente, magari partono tutti e quattro alle 7 o 7 e mezza, perché gli autisti vogliono prendere il caffè insieme. Così il risultato è che all'inizio ce ne sono quattro, poi gli altri devono aspettare un'ora e mezza il prossimo autobus. Queste cose sono note a tutti. E qui, anche se l'ATAC raddoppiasse il prezzo del biglietto, andrebbe immediatamente, farebbe un utile, però questo non significa che il servizio al cittadino è migliorato. Quindi purtroppo è una cosa non facilmente migliorabile, ma quello a cui dobbiamo guardare non è facilmente osservabile e misurabile, ma quello a cui dobbiamo guardare è l'efficienza del servizio che offrono al cittadino. Già introvati. Però ti fa un ragionamento soprattutto sulle municipalizzate, fammele chiamare così, buone, quelle che danno un servizio alla collettività. Il problema è che a fianco di queste, come tu ricordavi, ce ne sono altre 5-6 mila almeno, che non si capisce bene che cosa facciano, e non che cosa facciano, perché esistano da questo punto di vista. Secondo te la resistenza più forte in questo momento dov'è? Perché nessuno vuole toccare acqua, tram, biglietti, cioè tariffe anche calmierate. Vorremmo sapere perché i soldi dei contribuenti vengono utilizzati appunto per produrre uova, latte o per avere partecipazione in viaggi e terme. La resistenza più forte è nelle dimensioni del sistema. Se per anni si sono create società partecipate dagli enti locali nei più diversi settori, e sottolineo ancora, perché sono tante, società strumentali, cioè che lavorano solo per la pubblica amministrazione, per il loro proprietario. Perché sono state create? Esempio, perché il patto di stabilità per anni imponeva dei tetti di spesa, dei limiti di personale che potevano facilmente essere aggirati tramite la costruzione di società, che nella seconda metà degli anni 90 e primi 2000 erano sinonimo di modernità, eccetera, e quindi le norme sostanzialmente favorivano in maniera diretta o indiretta queste società, che permettevano in molte zone di creare consenso tramite assunzione. Allora tu hai organici che, spacchettati, sparsi in molte società, hanno migliaia e migliaia di dipendenti. Che fai? Le chiudi e mandi tutti a casa? Costa in ammortizzatori sociali. Ci ha provato Monti dicendo nella spending review del luglio 2012: entro dicembre le società strumentali devono essere o privatizzate o sciolte. Il risultato è stata prima la proroga e poi un emendamento per cancellare la norma. È ovvio, perché questo creava, diciamo, non si è creato l'accompagnamento per poter attuare davvero questo tipo di razionalizzazione. No, ma allora è chiaro che da un punto di vista politico tu non puoi mandare a casa migliaia di persone in una botta sola, anche se da qualche parte il suo problema andrà affrontato, perché se ogni volta ci fermiamo a dire ma creiamo disoccupazione, intanto la disoccupazione record nel mondo privato ce l'abbiamo già, e da qualche parte smettere anche di avere società che si occupano di cose non indispensabili per la collettività e che continuano a chiudere in perdita, a mio avviso andrà affrontato. Gianni, volevi intervenire su questo? Non c'è il minimo dubbio. Bisogna, diciamo, fare un passo oltre i grandi annunci, magari non dire più in sei mesi risolviamo il problema perché le chiudiamo tutte, ma dire lo risolviamo in tre anni, ma creando anche le condizioni di accompagnamento per risolverlo, perché l'alternativa è far pagare, diciamo, alla gente che ci lavora, che non è responsabile se non in caso di assunzioni clientelari eccetera eccetera, e non far pagare nulla ai veri responsabili, cioè chi ha deciso, creato, ingigantito, gonfiato queste realtà sostanzialmente parallele. Professor Perotti, è d'accordo con l'idea di trovarti? Cioè, allora, è inutile continuare con gli annunci, adesso chiudiamo le municipalità, tanto poi non riusciamo a farlo in quei tempi, e probabilmente sarebbe anche sbagliato farlo in quei tempi, nessuno vuole, diciamo, creare una nuova tensione sociale, però iniziare un percorso di dimagrimento lasciandone un migliaio e le altre 7.000 le chiudiamo, i comuni escono da queste cose, se incassano dei soldi li utilizzeranno per fare altro, cioè da qualche parte bisogna iniziare a prenderlo sto toro per le corna, no? Sì, la mia impressione è che primo non sia un processo gestibile a livello dello Stato centrale, perché sono migliaia e migliaia, come si diceva prima, lo stesso Stato centrale, nessuno sa esattamente quante e dove siano, quindi non credo che sia un processo centralizzabile. Secondo, io credo che proprio per i motivi che si dicevano prima bisogna pensare che sarà un processo lunghissimo. Io quando ero bambino mi ricordo già che si parlava dei famosi enti inutili che non sono mai stati eliminati, no? Quindi sarà un processo lunghissimo, molto più di tre anni, per il motivo che si diceva prima, che non è politicamente, economicamente, socialmente fattibile mandare tutti a casa in una volta sola. Quindi secondo me dobbiamo abituarsi a questo, non è un processo gestibile dallo Stato centrale e è una questione che prenderà tanti tanti anni, bisogna attuare degli scivoli di uscita per queste persone graduali, ma ci vorranno moltissimi anni, però se si comincia, chi ben comincia è a metà dell'opera. No, anche perché sennò ogni volta che si parla di un ente inutile gli stiamo allungando la vita, cioè ha ragione su questo, mai vita lunga hanno avuto, così lunga hanno avuto gli enti inutili con tutte le volte che ne abbiamo parlato, sembra quasi un paradosso. Mi chiede, vorrei girare la domanda rapidissimamente a Gianni Trovati, mi chiedono alcuni ascoltatori, ma non si potrebbe cambiare il mandato delle municipalizzate e quindi anche cioè, una soluzione di carattere normativo che le obblighi poi a diventare, quando non sono appunto servizi indispensabili per la collettività, a diventare società private tout court in un tempo relativamente breve? Ci si è tentato, ma se le società di cui parliamo spesso non hanno ragione economica, tu devi prendere un privato e dire che lo metti in galera se non compra la società, cioè non puoi obbligare i privati ad acquisire realtà che non hanno ragione e senso economico. Privatizzare vuol dire creare un interesse per qualcuno che investa in quella tale società e naturalmente in molti casi questo non è possibile. Sì, perlomeno non ancora, magari ci arriveremo pure all'obbligo di collocamento con... Si prende l'elenco degli imprenditori, si va alla Camera di Commercio, chiunque abbia una partita IVA lo si obbliga ad adottare, a comprare una società... Adotta una municipalizzata per l'estate, va bene, dai. Occidentale, ma si può pensare. Mettiamola così. Grazie a Roberto Perotti, appunto editorialista del Sole 24 Ore ed economista della Bocconi di Milano. Grazie a Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.